Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, in una puntata come sempre venerdì in cui avremo anche la poco invidiabile classifica degli sprechi della pubblica amministrazione e quindi anche degli enti, soprattutto degli enti locali, lì ci concentriamo, ma vi dico subito che non parleremo solo di enti locali, comuni e regioni, ma anche del governo. Per il resto la giornata economico-finanziera, come già ricordavano i nostri GR24, si connota soprattutto per quanto accaduto a Bruxelles, in cui, secondo quanto riportano molte fonti, poi è stato chiarito in parte anche dal Presidente del Consiglio, vi è stato un vivace scambio di battute tra Matteo Renzi e Angela Merkel, in cui sostanzialmente Renzi ha detto alla Merkel: non raccontateci che donate il sangue dell'Unione Europea. Però l'oggetto riguarda sì i migranti, ma soprattutto anche l'opposizione tedesca all'idea di un'unione bancaria europea che preveda anche un'assicurazione sui depositi. Angela Merkel ha ribadito il suo no, la posizione della Germania sullo schema di assicurazione depositi bancari è ben nota, ma la ripeto, non vogliamo la comunitarizzazione dei depositi, come abbiamo detto all'Ecofin e al Vertice, mentre Francia e Italia la chiedono. La Germania teme di dover pagare per altri, noi facciamo notare che da un lato la Germania con i soldi pubblici ha già salvato le sue banche quando si poteva fare, quindi nulla di illegale nel 2009-2010, ma che molti osservatori ci fanno notare, e in questo oggi è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Renzi, che ha detto che il sistema delle banche italiane è più solido di quello tedesco. Può sembrare strano in questo periodo, ma faccio notare che molti osservatori sottolineano il fatto che se andiamo a prendere le grandi banche tedesche e le banche italiane, l'esposizione verso prodotti derivati delle grandi banche tedesche è molto alta, in particolar modo quelle di Deutsche Bank, nulla di illegale, ma ricordo che i derivati, i prodotti maggiormente a rischio sono quelli che hanno fatto esplodere la crisi nel 2008, prima negli Stati Uniti, soprattutto negli Stati Uniti, visto che ieri commentavamo la fine di quel periodo negli Stati Uniti con l'aumento dei tassi di interesse decisi dalla Yellen. E quindi insomma, l'idea di una superiorità delle banche tedesche, del sistema bancario tedesco rispetto a quello degli altri paesi è tutta da dimostrare. Resta però, ed è oggettivo, il fatto che la Germania sia stato il protagonista del 2015 in vari aspetti, nell'opposizione al quantitative easing di Draghi, fatta a inizio anno, nella gestione della crisi greca e nella gestione con estremo rigore della crisi greca e quindi con intransigenza secondo molti, nella gestione dei migranti che è valsa sostanzialmente la copertina di Time a Angela Merkel, e adesso anche nel tema bancario. Sempre molti osservatori fanno notare che la Germania potrà essere molto probabilmente anche il protagonista del 2016, nel senso che non sfugge a chi osserva queste dinamiche una tendenza a un neonazionalismo tedesco, se così si può dire, in cui si pensa che sostanzialmente gli interessi della Germania equivalgano agli interessi dell'Europa, e comunque i primi interessi a essere discussi sono quelli tedeschi, non quelli europei, della casa, come si chiamava una volta, europea. Ed ecco perché anticipo che il 31 dicembre faremo una puntata speciale proprio su questo, e probabilmente poi la replicheremo anche il 6 di gennaio. Vi invito chi sarà in ascolto, chi non sarà in vacanza, a non perderla, perché ogni tanto cerchiamo anche di guardare un po' più alto rispetto alla cronaca e all'attualità di tutti i giorni, e approfittiamo appunto di queste giornate un po' più particolari per ragionare sulle tendenze del 2016, e nel caso delle politiche economiche il protagonista sarà, piaccia o non piaccia, di nuovo la Germania. Il 24 invece avremo la classica puntata natalizia di previsioni sui mercati, quella che molti ci stanno chiedendo, con l'astrologa e con un banchiere di investimento, chi fa investimenti bancari, la famosa puntata Tamburi contro Mirti, che ormai replichiamo come tradizione natalizia ogni anno. Questo è il tema che affronteremo soprattutto nella seconda ora del programma. Per quello che riguarda le borse, Milano meno 0,97%, Parigi meno 1%, Francoforte meno 1,1%, Londra meno 0,50%. Tra i titoli segnalo, mentre l'euro resta fermo a quota 1,08, segnalo Mediaset meno 3,40%, Moncler meno 2,70%, CNH meno 2,5%, come Ferragamo, Prismian meno 2,20% come Telecom Italia, Luxottica meno 1,90% come ST Microelectronics, 1,60% lo perde Azimut e anche Buzzi Unicem, l'1,5% del calo di Finmeccanica, Eni, Tods e Unicredit. Positiva Anima Holding più 1,70%, Pop Milano più 0,90%, Italcementi mezzo punto percentuale di rialzo. E ripeto, parleremo di questo, dello scontro, insomma, della dialettica a livello europeo, e anche delle ipotesi su cui si ragiona in tema di unione bancaria. Prima di arrivare alla classifica della settimana e poi alla startup della settimana, che mettiamo sempre in contrapposizione voluta tra chi vive, diciamo, sprecando i soldi pubblici, mettiamola così, e chi invece ha avuto il coraggio di lanciare un'iniziativa nel 2000, in questi anni di crisi. Ripeto sempre, noi citiamo i casi di cattiva amministrazione dei soldi pubblici, sia a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Sappiamo benissimo che ci sono tantissimi consiglieri comunali e provinciali che fanno benissimo il loro lavoro e hanno gettoni di presenza o non li hanno o irrisori, però diciamo lo scopo è tenere un faro acceso, almeno mediaticamente, almeno con questa radio, su chi pensa che i soldi pubblici, essendo pubblici, possono essere utilizzati e sprecati. Andiamo, dopo aver ricordato il numero per i vostri sms e whatsapp, 349-238-6666 e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, andiamo, dicevo, alle notizie in breve. Partiamo dall'India oggi, mentre il petrolio è fermo a $34, $35 al barile, è sui minimi degli ultimi 7 anni. Dicevo, partiamo dall'India perché oggi il governo di New Delhi, nell'India è l'unico dei BRIC, o BRICS, come diceva chi includeva anche il Sudafrica, a non essere in recessione o comunque a non aver rivisto, come nel caso della Cina, le stime al ribasso sulla crescita. Ahimè. Oggi invece anche l'India ha annunciato di aver ridotto le previsioni di crescita del suo PIL al 7-7,5% contro una stima iniziale a febbraio dell'8-8,5%. Renzi, Merkel, sentiamo intanto questo passaggio, poi ne parleremo dopo le 18, in cui alla domanda in conferenza stampa al Presidente del Consiglio italiano se vi è stato questo un attacco alla Germania, Renzi ha così risposto. Il fatto che io abbia attaccato la Germania è una valutazione sua che rispetto, naturalmente sono i classici fatti separati dalle opinioni, lei però ha espresso un'opinione, non un fatto. Io sono intervenuto non soltanto una volta, se la può consolare, ponendo delle domande, dei quesiti alla cancelliera Angela Merkel, cui mi lega un rapporto di amicizia e di stima, ma questo non impedisce di poter formulare delle domande e dei quesiti. Ne ho fatti diversi, dagli aeroporti greci fino all'unione energetica, il Nord Stream, dalla questione delle impronte digitali fino alle problematiche legate all'unione bancaria. Ho domandato, cioè, alla signora Merkel, alla cancelliera Merkel, se la posizione della Germania sui depositi è una posizione che è chiusa o meno. È stato forse il momento meno polemico di tutti i nostri piacevoli scambi di questa mattinata e di ieri, quindi tutto tranne che un attacco alla Germania. Io non attacco la Germania, non l'attaccherò mai. Ho detto, questo sì, lo ripeto, l'ho detto alla cancelliera Merkel oggi, che quando si tende a far credere che la Germania sia il donatore di sangue dell'Europa, agli occhi esterni non appare propriamente così. Allora, sì, ci sarà Adriana Ceretelli, lo chiedo agli ascoltatori, la mitica Ceretelli, come scrivete. Qualcuno mi scrive al 349-238-6666, ma Barisoni ripeti sempre le stesse cose, cambia un po'. Ma se non cambia la situazione, perché devo cambiare idea? Nel senso, abbia pazienza, non è che cambio idea per cambiare così... Per avere nuove cose da dire. Uno può anche continuare a dire le stesse cose visto che la situazione non è cambiata. Allora, tant'è che poi Angela Merkel ha ribadito, come ricordavo, il suo no. La posizione della Germania sullo schema di assicurazione depositi è ben nota. Non vogliamo la comunitarizzazione dei depositi, come abbiamo detto all'Ecofin al vertice, a favore invece di una garanzia europea sui depositi bancari. E anche il presidente francese François Hollande, che al termine del vertice europeo ha detto: è importante che l'unione bancaria sia completata con la garanzia europea sui depositi. La Germania non la vuole, vogliamo uscire più forti dalla crisi, ha continuato Angela Merkel. Abbiamo detto che serve sviluppare un miglior coordinamento economico e continuare l'unione bancaria e l'unione dei capitali. Ma abbiate un po' di pazienza, anche perché nella polemica è stato coinvolto anche il commissario europeo Hill, Jonathan Hill. Perché Renzi ha detto: trovo lunari le parole del commissario Hill quando dice che è stata l'Italia a decidere sulle quattro banche. In questo obiettivamente ha ragione il Presidente del Consiglio. Adesso l'Europa aveva bocciato, un conto è chiedere all'Italia, al governo, come abbiamo fatto in queste settimane, o criticare il governo perché si era mosso tardi, è arrivato tardi a questa decisione, bisognava affrontare e scatenare il problema prima. Però è vero che è stata la Commissione Europea aver detto no, se usate i fondi garanzia dei depositi, per noi sono aiuti di Stato anche se sono fondi privati. Dopodiché Jonathan Hill, da quello che ci risulta, è anche un lobbista, o meglio è molto sensibile, voglio essere più forbito, è molto sensibile alle logiche bancarie di alcuni gruppi, ed è stato uno di quelli che ha dei gruppi bancari del centro nord Europa, mettiamola così, ci risulta, ed è che stia anche frenando su una piena attuazione dell'unione bancaria per quello che riguarda i diritti dei correntisti e dei risparmiatori. Poi c'è il tema anche del Nord Stream, ne parleremo. Cos'è? Allora, tutti i paesi, l'Unione Europea ha deciso, come sapete bene, di aderire alle sanzioni contro la Russia per la vicenda ucraina decisa dagli Stati Uniti. Questo ha di fatto, anzi, ha fatto saltare il progetto South Stream, ossia il gas che doveva passare attraverso la Turchia e arrivare, diciamo, come fonte di approvvigionamento dai Balcani nel sud Europa, il gasdotto. C'è un altro gasdotto, cioè i gasdotti erano due, South Stream e North Stream. La Germania sul Nord Stream sta andando avanti, come ha fatto notare Renzi oggi, sono contrari alla nostra posizione solo Germania e Olanda. E cioè, voglio dire, se siamo tutti d'accordo con le sanzioni, allora blocchi anche il Nord Stream, perché non è pensabile che le sanzioni contro la Russia, molto discutibili secondo alcuni, che fanno un grosso danno all'Italia, perché la Russia era un nostro mercato di esportazione pazzesco dei prodotti del Made in Italy, quelli di maggiore fascia e maggiore costo, anche perché la Russia, in Russia l'Italian sounding, cioè il prodotto simile all'italiano, non attecchiva, i russi compravano la materia, compravano il prodotto originale. Ebbene, noi subiamo i danni, come subisce anche la Germania, ma ci mancherebbe solo che allora si tenesse il gasdotto del nord, quello che va di fatto a portare il gas a Olanda, Germania e tutti i paesi del nord Europa, e si abolisse solo il gasdotto del sud. Voglio dire, sarebbe di nuovo un'Europa con due pesi e due misure. Sì, vedo molti messaggi. È vero che ci siamo beccati la seconda recessione grazie alla posizione tedesca, ed è vero anche che la Germania, ripeto, sarà probabilmente il tema di tutto il 2016, sta sempre più esercitando una posizione egemonica. Alcuni scrivono: magari ci governasse la Germania. Perfetto, è un'opinione, ma il dato di fatto è che la Germania sta sempre di più pensando che i suoi interessi coincidano con gli interessi dell'Europa, e ovviamente non è così. Veniamo all'Italia. Allora, come sapete ampiamente, non è passata la sfiducia al ministro Boschi, 373 no. Renzi parla di un clamoroso boomerang dei 5 Stelle, sono usciti dall'aula i deputati di Forza Italia, ma ha votato Brunetta. Ministro Boschi ha detto di essere orgogliosa di mio padre, se avrò fortuna di essere madre spero che i miei figli siano orgogliosi di me. Per il governo chi sbaglia paga, pagherà anche mio padre, non ci sono due misure e favoritismo. Mi si dica che non lo sono all'altezza, se lo ritenete, ma non vi consento di mettere in discussione la mia onestà e il rispetto dei principi di legge. Non ve lo consento io e non ve lo consente la realtà dei fatti. Già, perché la realtà dei fatti che oggi abbiamo portato in quest'Aula è molto più forte del qualunquismo, del pressappochismo, della demagogia, di chi ci vuole dire che non siamo tutti uguali di fronte alla legge. No, cari colleghi, con il nostro governo siamo tutti uguali davanti alla legge e ciò è stato dimostrato da commissariamenti, sanzioni, azzeramento di azioni. Opposta chiaramente la visione dei 5 Stelle, l'intervento di Battista, che Alessandro Di Battista, deputato dei 5 Stelle alla Camera, dice: non avete pietà per i cittadini truffati, le esprimo la più totale indignazione verso il vostro governo e non ci prendete in giro. Il dottor Boschi venne nominato vicepresidente soltanto un mese dopo che la figlia, il ministro Boschi, divenne ministro della Repubblica. Ma pensate di prendere in giro un paese intero con i vostri cavilli, le vostre balle, i vostri doppi pesi, doppi giochismi? Pensate di prendere in giro il popolo? Io non torno sulla vicenda, ne abbiamo parlato per due settimane. I fatti sono fatti, vedremo cosa succederà anche, dal punto di vista delle indagini della magistratura e che coinvolgimento vi sarà del padre del ministro Boschi nella dinamica. Lui fu prima membro del CDA del Consiglio di amministrazione della Popolare Etruria, venne multato come tutto il Consiglio di amministrazione della Banca d'Italia, 124.000 euro, e ne uscì. Poi è vero che con una connessione temporale, insomma, che crea polemica, quando si insediò il governo Renzi lui venne richiamato come vicepresidente. È ovvio che col senno di poi, ma in generale anche col senno di prima, uno poteva dire: vabbè, ma è il caso, dopo che ti hanno multato quando tuo figlio è ministro, di tornare a fare il vicepresidente di una banca che probabilmente sai che non naviga in grandi acque, mettiamola così, voglio essere buono oggi. Ma domani, in tema di banche, vi sarà l'assemblea degli azionisti per Veneto Banca. Io lo dico adesso, così ce la mettiamo via: il prossimo fronte bancario sarà Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Completamente diverso il caso, lì il caso è di correntisti o comunque clienti di queste due banche a cui per concedere un mutuo, un prestito, un fido è stato chiesto di comprare azioni. In alcuni casi si sta indagando anche se non siano stati concessi fidi e prestiti per comprare direttamente queste azioni, cioè che come unico scopo avessero l'acquisto delle azioni. Beh, faccio notare che per esempio nel caso della Vicenza da 62,5 euro si è scesi alla metà e che tutti i consulenti che noi sentiamo ipotizzano che nel caso di una fusione le azioni della Vicenza dovranno essere svalutate ancora tanto, si dice tra i 7 e i 10, per arrivare fino ai 7-10 euro. Ecco, no? E domani appunto assemblea di Veneto Banca, attesi 7.000 soci su 90.000, atmosfera tesissima, anche perché i titoli di Veneto Banca in questo caso hanno perso l'80% del loro valore. Il rischio commissariamento a questo punto è molto concreto, dopo che gli ispettori della Banca Centrale Europea hanno chiesto rettifica ai bilanci, anche lì molte sofferenze vere e proprie non venivano iscritte come tali, cioè soldi che non sarebbero mai tornati non venivano messi come sofferenze, e infatti dopo queste rettifiche i primi mesi del 2015 si erano chiusi con un rosso di quasi 800 milioni di euro. Ancora due notizie, poi partiamo con la classifica. Allora, il TAR del Lazio, il mitico TAR del Lazio, ha annullato le maxi multe per complessivi 29 milioni di euro che l'antitrust aveva inflitto lo scorso marzo a Unipolsai e Generali per un'intesa anticoncorrenziale. Rispettivamente Unipolsai era stata multata per 16 milioni e 900 mila euro e Generali per 12 milioni di euro, perché l'accusa dell'antitrust è che si fossero messi d'accordo per restringere la concorrenza sulla partecipazione alle gare per la copertura assicurativa RCA dei mezzi di 15 aziende di trasporto pubblico locale in altrettante città. Si fossero messi d'accordo su come spartirsi la gara. Vabbè, il TAR del Lazio l'ha annullata. Invece c'è un nuovo amministratore delegato unico dell'ATAC, la travagliata azienda del trasporto pubblico romana, è Armando Brandolese, professore al Politecnico di Milano, svolgerà l'incarico per un anno a titolo gratuito, questo si legge nella nota. Ultima notizia, riguarda i fondi europei di sviluppo, perché poi ne parleremo nella nostra top 5. Il tasso medio nazionale dell'Italia nell'assorbimento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, quello per le regioni depresse, è ormai vicino all'80% secondo Bruxelles. Non è una brutta notizia, anche se vorremmo vedere il 100%. La Campania è al 70%, la Sicilia è al 70% e il programma nazionale dei trasporti è al 59%, la Calabria recupera ed è prossima alla media italiana, che è appunto dell'80%. 349-238-6666 per gli sms e per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Dopo il meteo parliamo proprio anche del modo in cui non riusciamo, questa cosa mi manda in bestia, perché vedete, poi noi possiamo criticare la Germania e lo facciamo perché non siamo d'accordo, però poi quando l'Italia non riesce a spendere e le amministrazioni locali a spendere i soldi che sarebbero utilissimi, è facile anche per i tedeschi dire: beh, prima di chiedere l'ammorbidimento del patto, iniziate a spendere i soldi che già ricevete dall'Unione Europea. Comunque, meteo. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Focus Economia. La classifica della settimana. Oh, eccoci con la classifica, devo dire che è l'ultima prima del Natale, e vi dico subito che siccome poi è Natale, già uno ha l'acidità di stomaco perché mangia pesante, così vi vogliamo evitare il ricorso a uno dei farmaci più utilizzati in questi casi, la riproporremo poi dopo l'Epifania, tanto non vi preoccupate. Allora, al quinto posto partiamo con Torino oggi, purtroppo mi dico già, andiamo avanti, non voglio svelare nulla. Torino che ha fatto? Beh, è il caso che ormai raccontiamo da tantissimo tempo, dei famosi gettoni di presenza. C'è un'indagine da questo punto di vista, non è che ci siamo inventati nulla, nel senso che dopo un'indagine della Procura, il 9 dicembre scorso, la Procura ha notificato l'avviso di conclusione dell'inchiesta sulle giunte fantasma a un insieme di consiglieri e anche assessori. Che cosa succedeva? Nella circoscrizione 5 tutte le riunioni iniziavano alle 8 e finivano alle 18, e già dici, però 10 ore intense senza pausa, e tra l'altro a tutte le riunioni erano presenti tutti gli assessori, anche se secondo i tabulati telefonici erano da tutt'altra parte. Cioè, torniamo alla famosa problema che hanno alcune volte i consiglieri regionali e comunali di questo paese, dell'essere in due posti nello stesso momento. Com'è che l'avevamo battezzato? Vi ricordate la regione Piemonte, già lì? Il teletrasporto. Ecco cos'era, il teletrasporto. Nel senso che mentre erano presenti alle riunioni risultavano essere anche, in vari posti, addirittura qualcuno con il dono dell'ubiquità e risultava persino al suo posto di lavoro e anche nella riunione del Consiglio. La Procura non ha potuto accertare a quanto monti il danno economico provocato dai 10 indagati. Tra l'altro i gettoni di presenza si erano pure aumentati, il gettone da 40 euro era passato a 60 euro. L'importo mensile massimo contestato a ciascun consigliere sarebbe di 630 euro per il 2012, di 900 euro per il 2013. Il danno è quindi di alcune decine di migliaia di euro. Stessa cosa però, perché qui c'è un doppio danno per le retribuzioni dei datori di lavoro. Una giornata in giunta poteva fruttare anche 120 euro, cioè se tu sei in giunta il tuo datore di lavoro ti deve pagare comunque. perché sei per impegni politici. Tra l'altro, un insieme di aspetti di mal costume non solo in vigore nella circoscrizione 5, ma anche in altre circoscrizioni. Diventata presidente, per esempio, Paola Bragantini, ora parlamentare del PD, all'estero contestato il concorso di una truffa per le riunioni fantasma. Avrebbe cercato di mettere un freno alla consuetudine di convocare quasi le riunioni quasi tutti i giorni. Tra l'altro, la vecchia consuetudine era infatti di convocare le giunte quasi tutti i giorni, che permetteva ad alcuni di non andare al lavoro per più di 4 anni, in quanto costantemente in riunione al servizio della circoscrizione. Non è stato possibile estendere l'inchiesta ai consigli di circoscrizione, in quanto la legge prevede che comunque una seppur minima presenza, anche di pochi minuti, giustifichi sia il gettone che l'assenza dal lavoro. Quarto posto, oggi cercherò di essere il meno enfatico possibile, voglio stare molto in British se ci riesco. Andiamo a Palermo, dove c'è il piano blef per l'impiego, e qui iniziano a girarmi le scatole. Perché da questo punto di vista sono soldi che ci sono già e che queste amministrazioni non sanno e non riescono a spendere. Allora, la regione Sicilia non è riuscita a spendere o ha perso 250 milioni di euro destinati a misure a sostegno dei disoccupati e in particolar modo quelli giovani. Il piano è naufragato sia il piano giovani che il piano garanzia giovani finanziato a metà, nonché i bandi per le borse di autoimpiego e ricollocamento. Sono decine di interventi solo sulla carta. Così, in Lombardia, faccio un esempio: il cinquantenne che ha perso il lavoro, grazie alla regione Lombardia, ha un sostegno da 8.000 euro che la regione poi versa all'azienda che lo assume. In Sicilia no. In Lombardia un giovane fino a 29 anni può avere un sostegno da 500 euro al mese per stage retribuiti per un anno, in Sicilia no. In Lombardia un giovane non laureato può usufruire di un bonus apprendistato, in Sicilia no. Non perché la Sicilia non voglia, o non sappia, o non capisca, o non ci sia una disoccupazione che tripla rispetto alla Lombardia, ma perché la regione Sicilia ha perso i fondi o ha pubblicato sì gli avvisi per finanziare le misure, ma tra continui cambi di assessori e valzer di poltrone i bandi non sono andati più avanti. E il risultato qual è? Che in Lombardia nel biennio 2014-2015 si sono attivate 133 misure di sostegno all'occupazione, cioè la regione Lombardia ha speso 800 milioni di euro. In Sicilia le misure sono state appena 19, per meno di 180 milioni, di cui buona parte sono andati alla cassa integrazione straordinaria. Pensate che il piano giovani è naufragato con liti furibonde tra l'ex assessore Nelli Scilabra e la dirigente generale Anna Rosa Corsello sulla scelta che quest'ultima ha fatto di affidare senza gara il sistema informatico. Nel frattempo lo Stato italiano si è ripreso i 160 milioni che servivano a moltissime misure attuate. Sono rimaste a bocca asciutta così 3.330 giovani laureati siciliani, ai quali il piano giovani prevedeva di dare 400 euro di borsa di tirocinio per 12 mesi. Non è tantissimo, ma se sei disoccupato e abiti in una regione con un'altissima disoccupazione come la Sicilia, magari quei 400 euro veramente ti servono per un anno ogni mese per fare un po' di formazione. Tra l'altro c'erano pure previsti 1.000 professionisti iscritti agli ordini che avrebbero avuto un sostegno da 20.000 euro per aprire studi privati. Bella iniziativa, peccato che non l'abbiate fatta. 500 ragazzi tra i 18 e i 29 anni per i quali il piano giovani prevedeva 10.000 euro ad apprendista, e anche 1.000 giovani tra i 18 e i 35 anni che volevano avviare nuove attività imprenditoriali, e il piano giovani prevedeva 20.000 euro di contributo. Nulla di nulla. L'unico sostegno che hanno avuto i disoccupati sono stati 45.000 tirocini attivati con garanzia giovani nelle piccole imprese dell'isola, ma dei 180 milioni stanziati ne hanno spesi solo 100, e non è finanziata la misura che prevede il ricollocamento per i tirocinanti, e quindi che serve poi fare il tirocinio, e la misura per le start-up, cosa che è fatta in Lombardia ma in moltissime altre regioni, in Veneto, non solo, per cui vabbè, devo stare zitto. Al terzo posto, oggi abbiamo fatto Torino, Sicilia, Napoli. Anche qui, i fondi sono sempre quelli europei. l'obiettivo questa volta non sono i giovani e i disoccupati, ma il centro storico di Napoli, che insomma, necessita, anche qui voglio essere buono, necessita di un certo investimento nel restauro. Ci sono, c'erano. Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale aveva a disposizione 240 milioni di euro. Poi questi soldi sono stati ridotti a 100 milioni. Ora, 100 milioni di euro non ci farai tantissimo, ma qualcosa ci puoi fare per mettere in sicurezza gli edifici, abbellire il centro storico, riportare un po' di turismo, insomma, le telecamere, le luci, tutto quello che è un dissuasore anche per la criminalità, per la microcriminalità. Allora, loro, gli amministratori del comune sostengono che tanto anche se scadono questi fondi il 31 dicembre saranno rifinanziati, ma le regole dell'Unione Europea sono ferree: se non spendi quei soldi nel periodo previsto, tornano a mittente e vengono date altre aree depresse. Ok? Al momento su 28 cantieri che dovevano essere aperti, se ne sono in funzione solo 9, di cui solo 3 finiranno in tempo i lavori. Questi soldi sono a disposizione delle amministrazioni locali di Napoli dal 2007 e sono in parte stati sprecati. Pensate se avessero iniziato a utilizzare prima la formula dei 230, dei 240, poi almeno i 100 milioni dal 2007. Ci sarà una manifestazione il prossimo, anzi scusatemi, oggi, c'è già stata, alle 16 a Piazza del Plebiscito, dov'è che ho visto per sottolineare il fallimento, no, a Palazzo Penne c'è stata, simbolo del degrado del centro storico, per sottolineare il fallimento del progetto UNESCO, la perdita dei fondi europei. Al momento l'assessore Carmine Piscopo ha scritto una lettera al Corriere della Sera, che per primo nelle cronache locali aveva denunciato la cosa, dicendo: ritengo opportuno precisare che l'intera programmazione degli interventi finanziati dall'Unione Europea per il centro storico di Napoli sarà portata a compimento. Come? Non si capisce come. Il 31 dicembre è abbastanza vicino. Abbiamo iniziato in ritardo. È ovvio che per il 31 dicembre non ce la faremo, ha aggiunto. Allora, se non ce la fai per il 31 dicembre, stai scommettendo che l'Unione Europea questi soldi non si riprenda. A noi risulta l'esatto contrario, caro assessore Piscopo. Dopo il traffico, il secondo e il primo posto. Andremo rapidi sul primo perché non voglio spendere una parola in più di quanto non abbiamo già detto in questi anni. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. La classifica della settimana. Al secondo posto vanno i forestali calabresi. Allora, che cosa è successo? Voglio essere brevissimo, non voglio più. Ricordate che nel 2011 ci occupavamo dei forestali, quelli regionali, non del Corpo Forestale dello Stato in Calabria, che erano 10.500, ossia tutti i ranger del Canada e, come scrisse un nostro ascoltatore, orso yogi incluso, ok? Allora, che cosa è successo? Che ogni anno con la legge di stabilità si rifinanziano. Sono scesi, è vero, a 7.500 i forestali, 7.500, in Lombardia sono 1.400, cioè. Non è che non ci sia la Valtellina, comunque vabbè, 7.000 e le Alpi, 7.500. Apprezziamo lo sforzo, da 10.500 a 7.500. Il governo ha rifinanziato gli operai, si chiamano operai forestali, non forestali, per non confondere con Corpo Forestale dello Stato, e gli operai forestali della Calabria, altri 20 milioni di euro per il 2016, un emendamento dei relatori approvato in Commissione Bilancio. Perché la mettiamo al secondo posto? Intanto perché non si riesce a risolvere questa vicenda, ma al secondo posto mettiamo le proteste di alcuni deputati calabresi perché lo stanziamento è inferiore a quello dello scorso anno. Ma volete scherzare col fuoco? Cioè, nel senso, stiamo parlando di una regione dove, al di là diciamo delle caratteristiche di questi operai forestali, perché insomma le collusioni con l'Ndrangheta sono state più volte provate, ma non tutte, alcuni, Ma dicevo, addirittura ci fu chi lavorava per l'Andrangheta nel corso dei sequestri, basta leggersi i libri di cronaca nera recente. Ma dicevo, stiamo cercando di riportare al numero, a un numero accettabile, che non è neanche 7500. Dico, prendiamo le regioni montuose di questo paese, la Calabria non è solo montagne, certo che c'era, sì, le vantate. E tu ti lamenti perché 20 milioni sono pochi e hai il coraggio di protestare perché è inferiore a quello dell'anno prossimo? Vergognati come deputato, vergognati. E adesso andiamo al vincitore della classifica. And the winner is... Io lo so, è un po' un gioco facile. È la regione Sicilia. Ce l'hai con la Sicilia oggi? No, ma questa volta, questa vicenda è pazzesca, perché riguarda l'Expo. Allora, che cosa è successo? La regione Sicilia, come altre regioni, ha partecipato all'Expo. Non era un obbligo, ma ha partecipato all'Expo e ha avuto tra l'altro anche molti visitatori. C'è un piccolissimo problema: non sta pagando i suoi fornitori. Allora, si stanno moltiplicando le azioni legali, non pagano né gli alberghi a 4 stelle, né i cannoli, né le arancine. 2 milioni i debiti della Sicilia per l'Expo, ma 2 milioni di debiti non fatti a cavolo, cioè chi vendeva gli arancini aveva un accordo con la regione, chi forniva un servizio per essere pagato. Allora, sentite questa. C'è un manager, un imprenditore siciliano che ha fornito cannoli e arancine per 100.000 euro, non lo stanno pagando da mesi, ha scritto non so quante lettere. Eccolo qua, si chiama Andrea Crimi, è il direttore commerciale della Marranzano e ha scritto: non si possono far morire le aziende siciliane così. Lungo i 6 mesi dell'Expo ha fatto arrivare 30.000 fra cannoli surgelati, scorze di cannoli e arancini, Dio che fame, e ha accumulato un credito da 100.000 euro. Affideremo la pratica ai legali. Non c'è solo lui, c'è anche l'albergo di Milano Zurigo e il Carlisle Brera, che vantano fatture per 4.500 euro per il soggiorno di Cartabelotta del funzionario regionale Baldo Giaraputo, dello chef Natale Giunta e dell'architetto Gerardo Sineri. Il direttore generale dei due alberghi si chiama Emanuele Vitrano, che è pure siciliano di origine, e dice: con amarezza lo devo dire, ho mandato una decina di mail da fine giugno per sollecitare il pagamento, ho fatto scrivere alla regione chiedendo esplicitamente se fossero tutti spariti, ci è stata data una rassicurazione verbale, ma non abbiamo ricevuto nulla. La pratica adesso ce l'ha in mano l'assessore all'agricoltura per quello che riguarda Antonello Cracolici. Tra l'altro c'è anche un'ispezione di una commissione che ha messo su, nero su bianco, la violazione delle norme sull'acquisizione di beni e servizi. Ma ci sono anche le posate mai pagate. C'è uno studio legale di Bolzano che è stato incaricato di ottenere il forzato pagamento da parte della Regione Sicilia di 8.000 euro, ossia l'importo di una fornitura di posate commissionata alla Napage Italia SRL. La diffida scadeva lo scorso 31 maggio. E poi, proprio vergognosi, neanche i 15 stagisti che hanno lavorato nel cluster biomediterraneo sono stati pagati. Pensate un po', erano studenti, sono dell'Università Statale di Milano, dello IULM, a ciascun giovane spetta 500 euro. Una regione che ha il buco che ha e che spende i soldi, come abbiamo raccontato decine di volte, deve veramente vergognarsi per non pagare i fornitori. Ce l'ho fatta essere più calmo? No. Sì. Chiede la regia. Guarda che il tecnico di oggi è siciliano, per cui proprio tutto tranne che avercela con i siciliani. Con la gestione della cosa pubblica siciliana, sì. Ingegner Mauro Potenzieri, presidente della cooperativa VBO Ital Cables, buonasera. Buonasera, salve, grazie. Dove avete sede voi? La sede legale è Napoli, mentre lo stabilimento è a Caivano. Caivano, provincia di Napoli. Ecco, provincia di Napoli, sì. Lo dico senza retorica, senza buonismo, a noi fa un particolare, un aggiuntivo piacere quando le start-up che portiamo, dopo la classifica che vede purtroppo le regioni del sud essere predominanti, sono del nostro mezzogiorno, come nella Puglia, abbiamo avuto casi in Calabria, in Puglia, in Sicilia, in Campania, non è il primo. Matteo Potenzieri, ho sbagliato il suo nome. No, le chiedo. Infatti non capisco perché forse l'ho chiamata Mauro. Comunque, al di là di questo, andiamo avanti. Quando siete nati e che cosa fate? Allora, la costituzione della cooperativa risale ad aprile, però noi siamo partiti con un progetto di costituzione della cooperativa che ha visto il suo compimento quando siamo riusciti a fare un affitto del ramo d'azienda della vecchia proprietà che aveva lo stabilimento dove lavoravamo e che era in liquidazione. Questo è avvenuto a fine luglio, inizio di agosto. Oh, questo, se ho ben capito, è un caso, come già trattiamo il caso della cooperativa del birrificio di Messina, in cui i dipendenti, la spiego un po' male, prendono l'iniziativa e decidono, nonostante la società sia in fallimento, di prendere in mano e rifondarla. Posso dirla così? Sì, la società era appunto in concordato preventivo liquidatorio certo. Quindi in effetti lo stabilimento dove lavoravamo era destinato a essere molto probabilmente smembrato, venduto a pezzi. Quindi noi dopo primi momenti chiaramente di sconforto abbiamo pensato di cercare una soluzione, magari trovare la soluzione in noi stessi, insomma, e quindi abbiamo iniziato un progetto che è durato 2 anni, quindi è stato un percorso abbastanza complesso e lungo, e che ci ha portato appunto a riprendere in pratica l'attività nello stabilimento chiuso da oltre 2 anni. Allora resti con noi, perché a maggior ragione quando sono gli ex dipendenti, voi avete messo la vostra liquidazione, gli assegni di mobilità come soldi, ci interessano moltissimo. Dopo il GR24 349 238 6666 per WhatsApp, SMS, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà, il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. Questo weekend, oltre il turismo di massa, mete sempre più personalizzate, di Anna Rita D'Ambrosio. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, stavamo raccontando questa iniziativa all'interno delle startup che portiamo ogni venerdì dopo la poco invidiabile classifica degli sprechi, di ex lavoratori della Ital Cable, come si pronunciatela come volete, di Napoli, di Caviano, provincia di Napoli, 51 ex lavoratori. C'era la proprietà, il gruppo portoghese Italca, se ben ricordo, che aveva deciso di chiudere sostanzialmente lo stabilimento, lo aveva rilevato dal gruppo Reda Eli nel 2008, e voi, ingegner Matteo Potenzieri, cosa avete fatto? Sì, buonasera. Noi in pratica ci siamo costituiti in cooperativa e abbiamo sfruttato l'indennità di mobilità, in pratica sfruttando la legge Marcora che permette a chi si vuole associare in cooperativa o vuole aprire un'attività in proprio di avere in unica soluzione tutta la mobilità di cui ha diritto, e lì è stata la base finanziaria, diciamo, per quanto riguarda il progetto. Ovviamente, diciamo, non bastava, perché la nostra è un'azienda, una fabbrica manifatturiera metalmeccanica, dove la materia prima è l'acciaio, e quindi costa molto, diciamo, proprio la materia prima costa molto, quindi il nostro capitale non bastava per rimettere in moto un po' tutta l'attività produttiva, quindi è occorso che ci fossero altri finanziatori, in particolare ci hanno sostenuto CFI, Cooperazione Finanza Impresa, Coop Fond, e l'unica banca che, insomma, fin dal principio ci ha sostenuto è stata Banca Etica. in questo modo. Un attimo, siccome spesso purtroppo dobbiamo raccontare di casi in cui le banche o non intervengono proprio o intervengono dopo, e molti dei casi che abbiamo raccontato in questo anno vedevano l'apporto dei cosiddetti business angels, cioè persone che raccolgono o il crowdfunding o persone che danno i loro soldi perché credono nel progetto, o la raccolta di fondi attraverso la rete. Comunque, nel caso vostro invece 1.250.000 euro li avete messi di tasca vostra, no? Gli assegni di mobilità, sì, e le liquidazioni, già questo la dice lunga sulla serietà e il coraggio vostro. Poi avete avuto un aiuto da COP Fund e il Fondo per la Cooperazione Finanza e Impresa, che se non ricordo male è partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che vi hanno dato quanto? Loro sono entrati come soci finanziatori con 300.000 più 300.000. Ok, ecco. E poi banca etica, quindi quando c'è una banca che interviene siamo più che contenti, che quanto vi ha dato? Allora, Banca Etica ha aperto una linea di credito diverse, però per un totale di 1 milione. Oh. Quindi, diciamo, con modalità differenti ovviamente di finanziamento, alcune sono su medio termine, altre su breve termine, ma complessivamente insomma, fa 1 milione. Oh, con questi soldi che cosa siete riusciti a fare? Allora, con questi soldi noi siamo riusciti a fare una proposta al liquidatore, quindi affittare per 3 anni il ramo d'azienda con la promessa di acquisto. Nel finale. E abbiamo iniziato la produzione, quindi diciamo abbiamo iniziato ad acquistare la materia prima e riattivare un po' tutto il processo produttivo dello stabilimento, ma non solo, perché ovviamente abbiamo dovuto riattivare poi anche tutta la rete dei contatti con i clienti. Che si era interrotta. Siete ripartiti con la produzione, perché voi fate appunto trefoli d'acciaio, fili, giusto? Sì, facciamo cavi di acciaio per il cemento armato precompresso, che serve per fare ponti, viadotti, travestine ferroviarie, dei gassificatori, insomma serve per il cemento armato precompresso prevalentemente. Ok, e siete ripartiti o no già? Sì, siamo ripartiti chiaramente in maniera molto graduale, siamo ripartiti da circa 2 mesi. Ah, bene. Tutti e 51 gli ex lavoratori? Sì, tutti e 51 lavoratori. E la vostra previsione sul 2016? Beh, 2016 appunto noi proveremo a crescere in maniera graduale fino a raggiungere il nostro obiettivo per il 2016 e cercare di arrivare al 50% della produzione che avevamo quando ci siamo fermati, quindi una crescita appunto graduale che dovrebbe attestarsi in tonnellate in circa 23-25 mila tonnellate, che sarebbe la metà di quanto producevate prima sostanzialmente. Sì. Che dov'è che li vendete soprattutto, o avete intenzione di venderli? Noi ci rivolgiamo a un mercato mondiale, quindi grosso modo la nostra produzione sarà indirizzata un 50% sul mercato Italia e un 50% estero. E quando contate di tornare a break even, cioè di sostanzialmente avere un'attività che si regge da sola, che recupera? Ci auguriamo appunto nel corso del 2016, diciamo di arrivare al pareggio, insomma almeno negli ultimi mesi dell'anno, perché i primi, ancora i prossimi 6 mesi saranno ancora duri, insomma noi stiamo ovviamente siamo appena partiti, la strada è ancora in salita e dobbiamo lavorare ancora molto. Oh, io lo dico anche qui senza retorica, secondo me questo è un bellissimo regalo di Natale, dopo che ho rovinato lo stomaco a molti anche questo venerdì, perché dentro c'è tutto quello che vorremmo vedere, cioè ci sono dei lavoratori che con coraggio mettono la loro liquidazione, non è che vorremmo vedere questo, ma dico, cioè, è un esempio virtuoso, che mettono la loro liquidazione e gli assegni di mobilità per non far morire il posto dove hanno lavorato, perché ritengono che vi sia, come nel caso del birrificio di Messina, che vi sia un mercato. C'è il ministero, c'è l'ente pubblico, in questo caso il Ministero dello Sviluppo Economico, che vi dà una mano, e c'è anche una banca che concede un prestito senza che ci siano gli amici degli amici, senza farvi sottoscrivere obbligazioni subordinate, senza farvi comprare azioni, così la polemica la tengo alta. Giunta, visto che domani c'è l'assemblea di Veneto Banca, e fa la banca, in questo caso, che crede in un progetto. Dopodiché, in bocca al lupo veramente, che siate di esempio per tante altre situazioni se si riesce. In bocca al lupo a lei, ma soprattutto a tutti i 51 ex lavoratori dell'Italcable di Caivano, in provincia di Napoli, per l'esempio. Prima abbiamo criticato il comune di Napoli che non sa spendere i soldi che già ha e aveva ricevuto per il centro storico. Chiudiamo con una notizia positiva che viene sempre da Napoli. Grazie, ingegner Matteo Potenzieri. Traffico e poi lo scontro Merkel-Renzi-Renzi-Merkel. Focus Economia. Io rappresento un paese che rispetta le regole, anche quando quelle regole non ho scritto io. Perché deve essere chiaro a chi ci ascolta da casa in Italia che ciascuno di noi può trovare un comodo alibi, ma se la cancelliera Merkel ha messo 247 miliardi di euro per salvare le banche e noi zero, lo ha fatto rispettando le regole, allora si poteva. Io trovo stravagante che noi oggi discutiamo di questo attribuendone la responsabilità alla cancelliera. La cancelliera ha fatto ciò che voleva fare nel momento in cui poteva farlo. Sarebbe stato giusto che l'Italia avesse salvato delle banche in quel momento lì, o meglio, più correttamente, avesse messo dei soldi per sostenere il sistema del credito? Questo è un quesito che io lascio agli addetti ai lavori, ai giornalisti, ai politici, ai ricostruttori di storie. Non lo posso fare io non c'ero. A fronte di questo investimento, 247 miliardi la Merkel, zero noi, mi riferisco essenzialmente ai governi, agli ultimi tre governi prima del mio, si può naturalmente stare qui adesso a discutere dello stato di solidità delle banche. Io vi dico che il sistema di lo stato di solidità delle banche italiane è oggi comunque migliore di quello tedesco. E non soltanto perché Intesa San Paolo capitalizza il doppio, cioè la prima nostra, capitalizza il doppio della prima loro, Deutsche Bank, ma perché c'è un sistema, peraltro fuori dal controllo della BCE, che è quello delle banche territoriali in Germania, che personalmente credo fossi un amministratore tedesco mi preoccuperebbe molto. Oh, e questo è il secondo passaggio alla faccia del no, non abbiamo avuto uno scontro. Il primo l'abbiamo già ascoltato in apertura, quando risponde al giornalista, dice: io non ho attaccato la Germania, però ho fatto le domande alla Merkel, con la quale ho un legame di amicizia, dagli aeroporti greci al Nord Stream, e anche ho detto no, però Berlino non può fare, non può apparire come il donatore di sangue all'Europa, questo è inaccettabile. E il secondo passaggio è questo, sulle banche traduco per chi non avesse capito. Renzi ha detto due cose sostanzialmente: il primo, che forse la Germania ha utilizzato una finestra che si poteva utilizzare, cioè ha usato i soldi dello Stato tedesco per salvare e integrare il suo sistema di banche. Noi non l'abbiamo fatto, chiedete conto a Berlusconi, Monti e Letta, che c'erano prima di me, perché in quegli anni non abbiamo utilizzato anche noi per mettere a posto alcune banche che già traballavano. E poi ha attaccato la Germania, ho criticato la Germania dicendo: va bene tutto, però voi avete stati bravi a usare i soldi quando si potevano usare i soldi, ma non diteci che il sistema bancario italiano è a rischio, perché se vado a vedere cosa hanno in pancia le due prime banche in Italia e in Germania, questo è innegabile. Deutsche Bank ha prodotti un po' più a rischio, mettiamola così, qualcuno mi ha scritto: ma i derivati non sono così a rischio. E soprattutto ha fatto un riferimento abbastanza sibillino alle casse popolari, alle casse regionali, dove i Länder sono dentro. E insomma, non è che la gestione, non vorrei fare delle battute, ricordi quella popolare Etruria, ma insomma, la gestione di quei prestiti con cui le casse di risparmio regionali prestano soldi è oggetto di molte osservazioni, di molti dubbi. Detto questo, insomma, è la prima volta che sentiamo Renzi che non gliele manda dire Angela Merkel in maniera così diretta, ed è l'ennesimo capitolo di un'Italia che un po' sulle sanzioni alla Russia, un po' sul Nord Stream, adesso chiariremo, un po' sui profughi a livello europeo e sulle banche, non sembra starci sempre meno al a quello che alcuni chiamano il diktat tedesco. Adriana Ceretelli, la mitica, come ti chiamano i nostri ascoltatori, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles. Sì. Buonasera, mitica. Buonasera, buonasera. Ho esagerato, sto tracciando un contrasto più forte di quello che è stato? È stato lo stesso Renzi, diciamo, a lanciare i sassi e poi a cercare di, non dico nascondere la mano, ma comunque ammorbidirla, dicendo che non ha voluto attaccare la Merkel, ma ha semplicemente voluto denunciare dei problemi, e sotto questo aspetto non c'è ombra di dubbio che abbia fatto una lunga serie di denunce. Il problema, secondo me, è quale sarà il risultato di queste denunce. Beh, sull'unione bancaria, partiamo dai vari punti. L'unione bancaria, per esempio, Renzi e Hollande vogliono una garanzia europea sui depositi, la spiego in maniera molto semplice. La Merkel ha ribadito no, la posizione della Germania. Ma soprattutto, dimmi. Cioè, il fatto del no della Merkel, se vuoi, è un fatto, come dire, scontato. Mentre la cosa meno scontata è che è stato cambiato il comunicato finale del vertice, da cui è sparito ogni cenno al meccanismo appunto di assicurazione europea dei depositi. Quindi questo è il fatto che più, se si vuole, preoccupa, e preoccupa l'Italia ovviamente, ma preoccupa la Commissione europea e preoccupa soprattutto la Banca Centrale Europea. C'era Draghi al vertice e secondo le indiscrezioni trapelate ha mostrato e ha ribadito la sua preoccupazione sia per questa opposizione tedesca su un punto centrale, perché se l'unione bancaria ha da essere, Certo. Pure con gradualità, si deve orientare verso, come dire, un'unione vera, no? Perché questa volta l'unione morderà un po' la carne delle banche, e la carne delle banche siamo noi, no? Siamo i depositanti. Sì, spiego a tutti che tu hai già un principio di unione bancaria, perché la Banca Centrale Europea ha preso sotto di sé il controllo, la verifica, gli ispettori, come sappiamo, delle principali banche dell'area euro. Si vuole andare verso l'unione bancaria. Sono delle principali, perché la Germania non ha voluto che fossero tutte. Brava, perché non voleva mostrare quello che c'era nella pancia delle casse regionali, dai. Certo, delle banche. Anche sul fondo di risoluzione, cioè quello che scatterà quando, dall'anno prossimo, quando ci fossero dei fallimenti o delle forti ristrutturazioni, anche su quello, per arrivare a un fondo europeo bisognerà aspettare il 2024, sempre per l'opposizione della Germania alla mutualizzazione dei rischi. Ovviamente più ci si integra, più c'è il problema della garanzia dei depositi. Si sa, la regola europea dice che i depositi fino a 100.000 euro saranno garantiti, ma anche qui la Germania non vuole mutualizzare i rischi, dunque ciascun paese si pagherà deve i suoi. Crearsi un proprio fondo per pagarsi gli eventuali, appunto, contraccolpi sui depositanti del default bancari. Ma in questo caso, però, siccome c'è la regola del bail-in, cioè che il salvataggio non potrà più essere con fondi pubblici, bensì privati, in particolare dei depositanti, certo, degli obbligazionisti, ovviamente il problema diventa molto più scottante. Ed è un po' questo, sì, la ragione per cui Renzi diciamo ha in questo caso degli alleati potenti sulla carta, come la Banca Centrale Europea, e anche la Francia, che però parla un po' anche a bassa la Francia, voce, ma diciamo che è la Banca Centrale più importante. E però, detto questo, i tedeschi non si schiodano, e secondo me non si schioderanno fino a dopo le elezioni alla fine del 2017. Figurati. Quindi dovremmo arrivare al 2018, cioè abbiamo davanti a noi 2 anni in cui dobbiamo incrociare le dita e sperare che nessuna banca ci siano appunto dei fallimenti bancari, perché non è detto che tutti i paesi abbiano a disposizione i soldi necessari per coprire la garanzia sui depositi fino a 100. Vediamo di capirci tutti. Mentre i tedeschi quei soldi ce li hanno. La differenza è questa. Qui l'oggetto della garanzia sui depositi non è per gli oltre 100.000 euro. Lì c'è il bail-in dal 1 gennaio. Chi ha più di 100.000 euro concorre assieme a obbligazionisti subordinati e senior e gli azionisti al salvataggio della banca quando fallisce. Il problema sono anche i soldi fino ai 100.000 euro, cioè Allora, l'idea, se tu hai un'unione bancaria, hai una moneta unica, un'unica banca centrale che controlla le banche, un bail-in che vale per tutti, uno dice va bene, allora a sto punto, nel caso, faccio per dire, il Portogallo abbia un problema enorme, non riesca a coprire, tanto sei dentro l'ombrello dell'unione bancaria. La Germania non vuole, vuole che l'unione bancaria funzioni solo un tema di controlli e regole, ma non di condivisione degli aiuti. Ecco perché invito chi potrà ad ascoltarsi la puntata del 31 dicembre, che avrà come oggetto la Germania egemone in Europa, punto di domanda, la nostra copertina per scimmiottare un po' Time, e che sta venendo molto bene, poi replicheremo. Ma Adriana Ceretelli, come ultima battuta, non è che Renzi si sia tolto anche qualche sassolino, perché nella vicenda Banca Popolare Etruria, Marche, Chieti, Ferrara, sì, c'è stato lo scontro con l'autorità di vigilanza, con l'opposizione, ma si è anche capito che l'Europa, tramite questo commissario un po' lobbista, un po' lobbista, lo dico io, non lo devi dire tu, per le banche del centro-nord Europa, l'Italia, insomma, si è sentita usare due pesi, due misure. Ma senza dubbio oggi Renzi ha accusato a chiare lettere il commissario Hill di avere mandato una lettera che il governo ha eseguito, diciamo, pubblicamente. Esatto, ed è per questo appunto che Renzi dice: noi stiamo alle regole, che anche l'Europa sia alle regole, siccome l'Unione Bancaria dovrebbe avere questa terza gamba, che questa gamba si faccia. Discorso assolutamente ineccepibile. Il problema è che quando la Germania dice no, non c'è nessuno che fa cambiare idea a questo punto. Ed ecco perché una grande crisi sì. Che speriamo non arrivi. Ed ecco perché il titolo appunto è una Germania che pensa sempre più che ciò che è bene per i tedeschi sia bene anche per l'Europa. Ma sappiamo che non può funzionare così. Grazie anche a Adriana Ceretelli e buon fine settimana. Un augurio nel ringraziare Mauro De Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione al programma. Un augurio di buon fine settimana a tutti voi, a partire come sempre da chi dovrà passarlo al lavoro. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.